Mi sembra strano. Ciao a tutti, buonasera, buongiorno. Prima di tutto voglio desiderare che la situazione migliori in 2 o 3 settimane e sono sicuro che sarò così. Ma comunque mi sembra strano, come mi è sembrato strano il primo brote che è accaduto in Bois. E grazie a Dio ha finito. Alla gente nell'ospedale, alle dottore, agli infermieri e tutta la gente che lavorano nell'ospedale e alla gente che ha lograto l'immunizzazione per se stessa. Diceva che sembra strano che un posto molto specifico il problema avete peggiorato alla grande in un po' di tempo. Mi sembra abbastanza strano e credo che la stessa situazione è accaduta in Iberia, Iran, la Francia, Corea, Giappone, insomma, in tutti i posti dove ha permeato il problema. E credo che ha cosa di avere con abitudini cattive al mangiare piatto esotico, al salutare con 4 baci all'incontro e all'andare via senza fregare se è donna, uomo, e non parliamo di discriminazione. Comunque il problema si è da pensare abbastanza senza generare psicosi. Dobbiamo calmare noi stessi, dobbiamo calmare un po', fare 2 passi. In generale si tratta di prendere misure, le giuste misure in quanto al grosso del problema e nel fare le cose giuste. Adesso che c'è un piano che dobbiamo finire in 2 o 3 settimane e dopo vedere come andiamo e ricordiamo il sano distanziamento e lavare le manine ogni volta che possiamo. Prendere il bagno 2 volte per giorno se è possibile e se abbiamo il problema farlo sapere all'autorità di salute. Se abbiamo l'infezione dobbiamo fare la quarantena e se bisogna dobbiamo andare all'ospedale. E ricordiamo che tutto sta compreso con un sistema immunitario forte. Ricordiamo anche che tutto sta compreso in abitudini di salute. Smettela di bevere alcol, smettela da fumare, smettela da drogare e se devi fare sesso, non per forza e con sicurezza. Grazie a tutte e a dopo. Grazie.